come si è distorto il discorso della rete attraverso i mezzi di comunicazione di massa. Tutte le cose che noi conosciamo sul tema delle fake news, quindi quanto siano oggi un problema socialmente rilevante a livelli altissimi, che addirittura potrebbero aver fatto eleggere un presidente americano, ma poi non uno francese, quindi non si capisce perché sia funzionato in un caso e non in un altro, ma lasciamo stare. O quanto i nostri più giovani figli siano soggetti alla tentazione del blue whale, ecco, capite che probabilmente siamo all'interno di una realtà che proviene dal digitale, che viene raccontata dai mezzi di comunicazione di massa con cui siamo nati fondamentalmente, e che raccontano e producono un racconto sul digitale che produce molto rumore. Il libro la racconta proprio di questo, cioè di come, come dire, sia necessario isolare il segnale dal rumore. C'è anche la copertina che un po' lo suggerisce. Che lo suggerisce in maniera molto chiara. Il passaggio dal rumore alle linee un po' più rettilinee. È vero che il rumore, proprio nella teoria dell'informazione, questa è l'unica accenno accademico che vi faccio, produce informazione, perché è da lì che si genera l'informazione. Ma noi abbiamo un problema, lui lo scrive chiaramente in un passaggio, cioè che chi detiene la manopola del suono, per parlare del tema internet, oggi sono i mezzi di comunicazione di massa e non è il digitale in sé. Quindi anche da utenti di Facebook, di Twitter, non so, magari di Snapchat o utenti di WhatsApp o altre cose, pur essendo utenti, pensiamo sempre che la nostra esperienza personale lì all'interno sia un'esperienza personale, ma che ci sia un racconto da fare su come funziona il digitale in Italia che dipende da quanto ci viene raccontato nei programmi televisivi, che di solito alzano il livello di rumore, cioè mettono sotto i riflettori ovviamente i casi più eclatanti o dei casi inesistenti, come quello del Blue Whale, ma non voglio tornare su questo tema, no? Dandogli la legittimazione di un tema credibile. Il Blue Whale, scusi la signora. Ha ragione. Il Blue Whale è, secondo i media, questa moda per cui i giovani seguirebbero un gioco fatto di istruzione su internet che, di istruzione in istruzione, porta questi ragazzi a suicidarsi. Avete mai sentito parlare degli alligatori all'interno delle fogne di New York, sì, che escono dai bidet? Okay? Non c'è nessun ricercatore, non dico un antropologo, no? Ma neanche un giornalista che ne abbia potuto fotografare uno. Si chiamano leggende metropolitane, non nascono con internet. Chiaramente, come dire, diventa interessante quando la tematica è particolarmente interessante per la società, pensate al tema del cyberbullismo di cui sentiamo parlare, e quando tendono a confondere il luogo con il fenomeno. Cioè oggi parliamo di tutta una serie di temi, come scrive chiaramente Antonio nel suo libro, che sono temi che per la maggior parte del tempo esistono altrove, pensate al fenomeno del bullismo, come se fossero un fenomeno che nasce con il digitale o che abbia, come dire, un nuovo tipo di allarme sociale con il digitale. Okay? Questo non significa, lui lo spiega chiaramente, che non ci siano problematiche, eccetera, ma dipende molto dal racconto digitale che viene fatto, e manca un pezzo in Italia. Cosa vuol dire il racconto digitale che viene fatto in Italia? Che in Italia abbiamo un particolare rapporto tra i media di massa, l'intelligenza italiana, gli intellettuali e il digitale, e anche come popolazione, che è un po' diverso da quello di altri tipi di popolazioni. Cioè non abbiamo, ad esempio, sviluppato una serie di anticorpi all'interno della rete che da altre parti ci sono. I casi più noti possono essere l'America con i gruppi 4chan e la nascita di un gruppo come quello di Anonymous, che comunque rappresentano un modo di parlare di cose che non sono quelle dettate dall'agenda dei media digitali. Cosa voglio dire? Che se aprite Twitter la mattina o la sera e guardate che cos'è in trending topic, cioè le cose di cui si parla di più, sono tutti temi di cui parla la televisione o di cui parlano i giornali. Cioè, siamo, come popolazione italiana, siamo entrati all'interno dei social network e tendenzialmente continuiamo a parlare di cose il cui valore è deciso dai media di massa. Quindi riprendiamo il programma di cui si parla di più e che genera più engagement, così si dice in rete, è Sanremo, qualcosa vorrà dire. È chiaro? Quindi questo lo spiega Antonio molto, molto chiaramente, abbiamo avuto altre occasioni di parlare in un incontro che si chiamava la balcanizzazione di Facebook, però l'Italia ha un particolare rapporto con i media, che è il rapporto che abbiamo scoperto, diciamo, negli anni Ottanta, nel passaggio, come dire, da un monopolio, che è quello della TV di Stato, a un duopolio che, come dire, rappresenta Stato e mercato, che poi si è polarizzato fra reti Mediaset da una parte e reti Rai dall'altra, in cui anche il, diciamo, le reti pubbliche hanno finito per proporre un tipo di linguaggio, un tipo di immagine e un tipo di immaginario che è lo stesso di cui ci lamentiamo oggi della internet italiana. Cioè, i selfie di persone spogliate online non sono niente di diverso da quanto abbiamo visto negli anni Ottanta in tantissimi programmi delle TV di mercato. La battuta che faccio sempre io: il primo grande troll, cioè quello che interviene in una conversazione e molesta le persone, è Sgarbi. Ve lo ricordate a Maurizio Costanzo Show? Lui veniva pagato per andare e non trattare, come dire, dal punto di vista intellettuale un tema, ma per insultare le persone che parlavano di quel tema. Cos'è quello se non il trolling, no? Allora, è evidente che noi oggi ci stupiamo della polarizzazione dei temi quando da sempre abbiamo strutturato trasmissioni televisive che hanno dei nomi polarizzati, il rosso e il nero, o in cui c'è l'impostore, pensate alla gabbia, cioè si crea un pubblico polarizzato che in qualche maniera, come dire, ha delle persone al centro che si scontrano su un tema e loro rappresentano le tifoserie di questo tema. Cioè, come dire, è ovvio che all'interno della rete ci sono una serie di dinamiche, eccetera, però partiamo parlando dell'Italia, e questo poi è una delle cose che gli chiederò, pensando a quanto la massa che entra all'interno dei social network, e uno di questi è Facebook, sia poi una massa che è cresciuta come linguaggi, attitudini e immaginari con la televisione. L'Italia ha, in internet, ha un immaginario che è estremamente televisivo. Questo ce lo dicono anche tutte le ricerche scientifiche. Cioè, fondamentalmente, la testa che noi portiamo lì all'interno è quella che, con cui siamo cresciuti da spettatori della televisione. E quello è il tipo di linguaggio che molto spesso viene portato lì all'interno, con i salti mortali per cui i personaggi televisivi molto spesso stanno all'interno della rete e alimentano dibattiti o rappresentano, come dire, le stesse parti negative che in qualche maniera criticano. Io credo che uno dei più grandi molestatori online sia Mentana, ad esempio. Chiunque di voi stia su Facebook può vedere come Mentana si sia preso il compito di moralizzare le persone che stanno in rete, e quindi ci sono anche delle pagine dedicate a questa cosa, Mentana blasta persone, boh, blasta gente, e quindi, come dire, prende in giro, esagera, dà dell'idiota, dello stupido alle persone, cosa che non farebbe mai in televisione, non farebbe con un ospite, ma lì sopra sì. Quindi, come dire, la sua cura omeopatica, la stupidità, è di comportarsi in maniera stupida, non lo so, è problematica come questione, quindi questa è una cosa che, insomma, chiederò e su cui vorrei una specifica dal punto di vista di Antonio. Detto questo, cioè che c'è un rumore nel discorso sul digitale che si è prodotto in Italia anche storicamente, e ne abbiamo continuamente, cioè molto spesso sentiamo che quando la politica parla di temi che si legano a internet hanno a che fare sempre con l'allarme sociale. Il cyberbullismo è un allarme sociale, le fake news, che adesso sono alla Camera lunedì per un'interrogazione parlamentare, è un allarme sociale. Cioè, in realtà prendono dei temi che sono delle buzzword, così le chiamiamo, diciamo, in gergo, e le trasformano, e magari riguardano microfenomeni, comunque importanti, e le trasformano in allarmi sociali. La gente. Okay? Quindi c'è un discorso fatto sul digitale che tendenzialmente si è spostato su una dimensione molto negativa. Questo ha a che fare anche con... Scusa, ma certo. Buzzword è come passaparola? Buzzword è una parola... L'ho sempre letto, è una specie di parola chiave... Sì, è una specie di parola chiave che utilizzi ripetendola, no? Però diventa un mantra. Ci può essere, scusami Giovanni, ci può essere, anzi ci deve essere un equivoco sul significato. Il problema della buzzword è che tutti lo usano perché a un certo punto com'è letteralmente, cosa significa? Allora faccio un esempio. Fake news. Buzzword. Parola che viene usata per chiacchierare. Chiacchiericcio, senza indagare su, diciamo, con un certo rigore sul significato e sul modo in cui il significato è costruito, e soprattutto senza preoccupare, cioè usato come punto di incontro su una posizione opinabile e senza il rigore, diciamo, della parola che dovrebbe discriminare rispetto alle altre. Faccio l'esempio: fake news, se lo diciamo, si dà per scontato che è qualcosa che si trova in rete. Non veniva usata questa parola sui giornali, quando dopo la strage di Piazza Fontana tutti i giornali diedero la colpa al ballerino anarchico Valpreda. Quella era una fake news, però non si è mai usata questa parola fake news fino ad adesso, perché ora fa comodo che fake news venga associato a una particolare distribuzione che è quella online. Ed è una parola problematica, perché sotto fake news tu puoi avere la manipolazione, cioè uno Stato che produce notizie false per, come dire, convincere la popolazione a fare certi tipi di cose. Puoi avere delle false notizie che nascono, come dire, perché nascono da malintesi. Puoi avere, qualcuno di voi conoscerà chi fa umorismo in rete, ad esempio il Lercio. Lercio produce delle fake news, però è una roba che ci fa ridere. Poi è dichiarato, quindi dovremmo dire Lercio, centrale, cioè dietro, è dichiarato, ma come cuore, cioè. Però intanto molti ci cascano. O il male. Intanto molti ci cascano. La mia prof di fisica pensava che Tognazzi era stato arrestato, perché era una signora di 70 anni a cui noi portavamo un giornale al liceo. Questo è una cosa che lei potrebbe raccontare alla Boldrini, ma non credo che lei sia d'accordo con lei. Cioè, dice, in fondo, anche il Lercio, cioè, perché io prendo una notizia del Lercio, che noi sappiamo, intanto chi tra di noi sa chi è Lercio, non tuttissimi, alcuni, ok? Certo. Nel mondo reale magari meno persone. Se io creo una notizia che è molto verosimile, la condivido sulla mia pagina senza commentarla, dicendo guardate come fa ridere, e qualcuno la condivide sulla sua pagina, eccetera, sono sicuro che dopo due passaggi che c'è quello che dice, ecco, vedi, gli immigrati vanno, non so, vengono ricoperti d'oro, e invece magari è una notizia, come dire, è particolarmente ironica. È una fonte dichiarata, si dichiara che... Ma non è sufficiente. Non è sufficiente perché venga letto al 100% come una cavolata, però si tratta anche di ignoranza, e l'ignoranza c'è sempre stata, e va tacciata come tale. L'operatore dell'informazione però dovrebbe porsi il problema del risultato più che del processo. Allora, Giovanni, dietro questa parola fake news già vi ha detto che può essere la centrale della disinformazione in Macedonia, ed è una cosa. Satira, nel caso di Lercio. Poi hai fatto altri fraintendimenti, cioè nasce una qualcuno dice qualcosa e qualcuno lo prende come vero. In fondo era una fake news anche quella che ha prodotto la strage a Torino. Cioè, è successo qualcosa e dopo si è detto che qualcuno aveva detto che c'era stato un attentato, è vero, non è vero, sembra che non sia vero, non sappiamo niente di questa cosa, ma tutto questo viene etichettato sotto fake news. Il mio problema qual è? Che parliamo di un oggetto che non è chiaro e probabilmente ci facciamo una legge. Cioè, il mio problema è quello, parliamo di cyberbullismo e ci facciamo una legge. Quindi su quale tipo di oggetto, con quale tipo di confini? Queste sono tematiche che lui in qualche maniera... tratta nel suo libro per dire c'è un discorso di elementi che riguardano le cose che accadono in rete nel digitale e che vengono, come dire, raccontate sotto una forma di rumore. Il problema è perché c'è stato un racconto che è cambiato tantissimo negli anni. Semplicemente 10 anni fa o 15 anni fa tutto quello che aveva la parola digitale o internet era qualcosa che aveva un'assonanza di tipo positivo. Okay. È su internet, voleva dire che è una cosa positiva. È su internet, oggi invece è un'accezione negativa. Dipende da un racconto che i media fanno, e vorrei chiedergli esattamente il perché, ma sospetto che ci siano dei problemi legati anche ai modelli di business dell'editoria tradizionale nei confronti di altri modelli economici o culturali che si sviluppano in rete. Ed è successo anche perché il marketing accademico ha lavorato molto in questa direzione. Ci sono una serie di pensatori accademici, cito uno fra tutti che conoscete sicuramente o che qualcuno che conosce, che si chiama Morozov, che utilizza, che ha scritto dei libri appunto, diciamo, di critica della rete in maniera particolarmente negativa, e che lo fa per marketing, o Andrew Keen è un altro, che lo fa per marketing accademico. Cioè io mi invento una parola, ne ho avanguardia, divento il portatore sano di quella parola e mi chiamano nei convegni per parlarne. Anche questa è una cosa positiva. Parlare male di internet, come dire, fa tanto bene. Ricordo un convegno organizzato a Urbino con, come si chiama uno di quegli psicologi che vengono chiamati quando bisogna dire che tutto va male, e le persone non si amano più come una volta, che aveva la barba, i baffi, adesso se li è tagliati. Crepè. Okay. Paolo Crepè. Paolo Crepè, il titolo era: ragazzi, spegnete Facebook e baciatevi. Ora. Ma però buon consiglio. Allora, sulla seconda parte siamo tutti d'accordo. Sì, come dico da bolognese, cioè, secondo me limonare va sempre bene, ma Facebook non si spegne. Cioè, bisogna che mi dica dov'è l'interruttore. Cioè, spegnete, cosa vuol dire spegnete Facebook? Vuol dire avere in mente una realtà, che è quella dei media generalisti, no? Spegnete la televisione. Cioè, stiamo parlando stanno parlando di queste cose persone che non sanno di cosa stanno parlando fondamentalmente, oppure hanno interessi di altro tipo. E quindi creano una retorica legata al digitale e di altro tipo. Che cos'è? È un libro ottimista il suo, un libro buonista? No, il libro è diviso in due parti fondamentalmente. Nella prima parte cerca di smontare questa retorica dicendo: c'è un problema, è stato sviluppato su internet, in qualche modo quello che, come dire, i media raccontano. Cioè, internet è sempre raccontato un po' come su un plastico messo in tarda serata, ok? Che si dà l'idea dell'oggettività, c'è un plastico, è un plastico ed è un racconto, è chiaro? Cioè, abbiamo il plastico di internet, adesso ve lo racconto. Questo è il problema del racconto in Italia. La seconda parte, che è altrettanto se non più interessante perché ti porta all'interno di un meccanismo diverso, analizza in ogni capitolo argomenti che sono, io credo, accessibili anche a un pubblico molto più allargato, ma fondamentalmente molto innovativi, e rappresentano il punto più avanzato della riflessione che Antonio Pavolini fa, perché tocca dei temi che riguardano delle trasformazioni con delle cose come Google, con delle cose come quella che alcuni di voi conoscono, che è la Chromecast, insomma, poi ne parleremo, di come funzionano gli schermi oggi, di che cosa porteranno, con dei modelli che raccontano che rapporto ci sia fra l'editoria tradizionale, pensate al mondo musicale, e ad altre forme di economia e che tutti conosciamo legate al mondo della musica, che sono cose come iTunes, per esempio, cioè modelli anche di business che si sono sviluppando in maniera molto diversa, e lo fa attraverso molto esilaranti, se non fossero veramente tragici, no? Di progetti anni 90 di costruzione di web TV che non abbiamo mai visto, che avevano un modello di produzione televisiva che era quello della TV con le paillette, quindi racconta di questa anteprima a cui era andata visitando questa TV, che credo non sia mai partita, finanziata da qualcuno. Purtroppo è partita. Era un'epoca in cui non esisteva la banda larga. Per entrare su internet dovevi accendere il computer, accendere il modem, quindi immaginate fare la TV sul web. Io ricordo che leggevo libri mentre aspettavo che le pagine scrollassero e arrivasse un qualche tipo di immagine. E una TV che poi portava la TV del bagaglino sul web. Quindi la TV tradizionale immaginata per un canale diverso, perché le annunciatrici era la nuova televisione, e c'erano i truccatori, eccetera. Il messaggio, l'idea che è stata venduta lì all'interno è stato: niente paura, abbiamo perso, non voglio darvi troppi dettagli perché non posso rivelarvi qual è l'editore, abbiamo perso però una battaglia per poter fare la TV che volevamo fare, quella dei tralicci per intenderci, non perderete il vostro lavoro, truccatori, scenografi, registi, autori, eccetera. Faremo la nostra TV, ma useremo questo altro strumento per farla arrivare nelle vostre case. Quindi tutta la catena di produzione era quella vecchia, semplicemente il bocchettone finale per farla arrivare nelle case era il browser, accendi il computer, Windows 95, ok, modem a 48K, eccetera, e con molta pazienza, se eri fortunato, vedevi. Quindi capite che evidentemente c'è qualcosa che non va. L'altra cosa, poi lascio veramente la parola a lui perché gli vorrei chiedere un po' di cose, che racconta che forse la storia che conosciamo di internet non è quella fatta anche in Italia da mega accadimenti di cui sentiamo parlare, ma è quella più minuta, cioè quando internet entra in una libreria o entra nella piccola e media impresa. Cioè il racconto che lì viene fatto da internet è il produttore di rondelle di ferro di Biella che mette le webcam sulla linea di produzione per dire: noi abbiamo il digitale in azienda e siamo trasparenti verso l'esterno. probabilmente è di qualche interesse per chi, come dire, soffre di insonnia, ma forse non è l'uso più interessante che il del digitale. Beh, però anticipa la sensoristica. Anticipa la sensoristica. Cioè, allora, questo è il modello che noi abbiamo in testa, cioè portare il digitale all'interno della realtà scolastica forse non ha a che fare con avere una LIM che ha la forma e la struttura di una lavagna, sta nel posto dove sta la lavagna e viene utilizzata come viene utilizzata una lavagna. Chiaro, cioè c'è qualcosa che non funziona non solo nel racconto che viene fatto nella rete, ma anche nelle micro innovazioni quotidiane che introducono il digitale proprio all'interno delle nostre vite, partendo per una realtà come l'Italia non dai grandi casi, cioè l'esempio di come viene utilizzato nelle mega multinazionali, ma come viene utilizzato internet per esempio nella piccola media impresa. Ora lì capiamo il livello di arretratezza e quanto vaporware, per usare un'altra buzzword, cioè quanto fumo legato alla dimensione del digitale si venda. E basta scorrere, lui fa un esempio molto chiaro, i corsi che vengono venduti online di come si, cioè ci sono corsi anche di come farsi il selfie perfetto per Instagram. Ora capite che è una, cioè è come spiegare un corso di come si girano le pagine di un libro. Forse può essere interessante, ma non è quello, come dire, il tema di cui dovremmo parlare. Ora, qual è il tema di cui dobbiamo parlare? Cioè, quali sono secondo te, visto che abbiamo la fortuna di poterne parlare dal vivo, i due, tre elementi che ci mostrano una prospettiva di come internet sta cambiando le nostre vite dal punto di vista di modelli macro e quindi cambierà le nostre abitudini? Domanda a 10 milioni di dollari, mi rendo conto. Sì, anche perché mentre parlavi ce n'erano altre due, tre e mi sto preparando, sì. Quindi mi sei fatto questa virata alla sì, fine. Sì, certo, ovviamente. Oh. Per fortuna, sì, nella seconda parte del libro, il libro è effettivamente diviso in due parti. C'è tutta questa, no, c'è bene o male questa bipartizione. Di solito noi non tocchiamo la carta. Me la ricordo. Non, lo so. non è vero. Forti lettori, cioè tra l'altro, vabbè, c'è questa cosa che chi frequenta Monte Digitale non sia un lettore, non abbiamo testimonianze in questo senso. E beh, alla vista c'è calata parecchio. Allora, no, diviso in due parti, c'è tutta la parte della contronarrazione della transizione digitale, che poi spiega, magari su questo ci torniamo, che non è solo un problema di inadeguatezza culturale dei padroni del vapore, ma proprio un problema soprattutto di modelli di business in crisi, e quindi è una reazione al modello di business in crisi. E poi c'è invece una seconda parte con cui ho cercato di fare in modo che il libro lasciasse comunque uno spioncino di speranza e di luce per dire, ma che quando succederà la fine di questo racconto? Quando internet ci sembrerà davvero un cambiamento, senza invece far ricircolare la solita agenda della discussione? In che cosa cambierà veramente le nostre vite? Ecco, io di tutte le spie di questo progresso positive, proprio ne parlavo alla Social Media Week l'altro giorno, dove si parlava anche tangenzialmente di questo libro, però è più bello stare qui in una libreria con poche persone che stanno parlando tutte del libro, cioè per me è molto più interessante, molto più anche emotivamente coinvolgente. No, una spia molto positiva, che contiene però dentro anche il tema del racconto dominante, è: voi avete mai letto sul giornale un articolo che vi dice che per evitare gli ingorghi di Ferragosto basta che guardate il traffico su Google Maps? Google non ha neanche mai fatto un comunicato stampa per dirlo. Quando Google investì 200 milioni di euro solo in startup europee, fece un comunicato stampa di 20 righe. Il giorno prima un'azienda, non diciamo quale, che aveva investito, doveva annunciare che investiva 1,5 milioni di euro in startup italiane, fece un evento da 150.000 euro. Cioè un decimo dell'investimento era l'evento per annunciare l'investimento. Google ha fatto un comunicato stampa, non so voi se sapete quanto costa emettere un comunicato stampa, io lo so perché mi occupavo di PR 20 anni fa, costa diciamo circa 1.000-1.500 euro, considerato tutto il lavoro. Se paghi i contributi, vedo che ci sono altri operatori del settore che lo sanno, se paghi i contributi. Sai, però lavorando in un'agenzia, sì, l'agenzia chiaramente paga i contributi. Ecco, con un investimento di 1.500 euro, Google annunciò un investimento in startup, quindi in innovazione in Europa, pari a 200.000 euro. Questo farvi capire la scala. Da noi c'è l'effetto annuncio, che è la vera leva dell'innovazione. chi l'innovazione la fa davvero, poi anche con tante aree oscure, perché qui non stiamo certo a santificare Google, invece va molto più al sodo. Però se accendete la manopola della radio, che è quella stessa manopola lato client, non lato server, no? Del fruitore di media tradizionali, per sentire l'andamento del traffico, metà del notiziario che vi dice dove sono gli ingorghi viene speso per dirvi, in collaborazione con ANAS, AISGAT, AGIP, società autostrade, tutta una serie di soggetti che tutti insieme non riescono a darvi un servizio buono come un decimo di quello che vi dice Google guardando il vostro telefono. Cioè, se voi volete evitare un ingorgo in tempo reale, dovete vedere se la strada è verde, rossa o nera sulle mappe di Google. Punto. Non c'è altro. Eppure di questo non si parla. Perché? Perché non è nel racconto dominante. Non è nel luogo dove si cerca di difendere un modello di business. Ma questo è solo uno degli aspetti del futuro che ci arrivano comunque, perché entrano nelle nostre vite. Basta scoprirlo. Cioè, basta che vedete un'app del telefonino che vi dice che potete pagare il parcheggio senza cercare un parchimetro. In città drammatiche, in questo momento come quella dove vivo io, Roma, trovare un parchimetro funzionante è difficilissimo. Trovare un'edicola dove col gratta e vinci riesci poi dopo a metterlo sul... è impossibile. Non sa neanche dove sono le strisce blu, perché molte sono cancellate, altre no. Però esiste un'app che si chiama Easy Park, di cui non parla nessuno, che ha fatto un accordo con il Comune di Roma. Adesso non so esattamente come abbia funzionato lato, diciamo, business, però lato utente io pago il parcheggio in questo modo, va direttamente sulla carta di credito e ha risolto il mio problema. Sull'auto? Niente, perché se, l'applicazione sa dove tu hai lasciato la macchina e lo segnala a un server. Infatti questo pensavo, perché il vigile che ne sa. Secondo me non va a controllare l'app. A Roma io lo uso da un anno e mezzo, non mi hanno mai fatto la multa. E i vigili sono abbastanza. Quindi a Roma funziona. A Roma funziona, poi magari in certe altre città non funzionerà, chi lo sa. Però insomma, per dirvi che ci sono dei fenomeni che proprio di cui vi rendete conto personalmente. Per esempio, parliamo delle API, cioè delle informazioni che le società di trasporto pubblico sono in qualche modo costrette a condividere perché sono open data. Quindi i GPS che sono sugli autobus, che dicono dove stanno gli autobus, in modo che sai quando arrivano. Sì. Allora, l'app dell'ATAC è inutilizzabile. Però esistono, mi sa che anche qua non sì, è proprio il massimo. Non so come a Bologna, però esistono delle app che usano le stesse API, gli stessi dati, le stesse informazioni messe a disposizione dai GPS dell'ATAC, perché sono dati pubblici, sono di vostra proprietà. Fanno applicazioni di terze parti, tipo Moovit, e tu scopri con Moovit in ogni città d'Italia dove sono gli autobus, a patto che il guidatore tenga il GPS acceso, perché c'è anche un altro problema. A Roma alcuni non lo fanno, quindi alcuni autobus appaiono e tu non capisci perché anche sull'app. Ma se sono open data dovrebbe essere obbligatorio. Sì, dovrebbe essere obbligatorio. Loro dovrebbero tenerlo. Capire anche piccole, come funziona. Piccole distorsioni. Però, tutto questo per dire che ci sono dei, nella vostra vita quotidiana, delle cose di cui sui giornali, in televisione non si parla, ok? Perché? Perché vanno a disturbare catene, interessi precedenti, ok? Che hanno invece contatti con i media. Okay. Per rispondere invece a quell'altra domanda che avevi fatto prima, Giovanni, qui dobbiamo fare forse un po' mea culpa, perché noi parliamo di queste cose con persone come Giovanni e un circolo abbastanza, che è stato per tanto tempo abbastanza autoreferenziale, che solo di recente parla con pubblici più ampi, insomma parliamo a convegni, a seminari, però per tanto tempo noi abbiamo avuto un atteggiamento snobistico, abbiamo creduto che il motivo di questo racconto dominante fosse dovuto a una mancanza di cultura da parte dei soggetti difensori del preesistente. E quindi avevamo queste macchiette, per esempio, dell'informazione come Emilio Fede, no? Che facevano questi servizi contro Facebook, ci facevano vedere i blogger rinchiusi nelle camerette che non mettevano mai la testa fuori di casa, che oggi sembrano vecchi, superati, pensando che fosse perché Emilio Fede per noi non era in grado di capire quello che stava succedendo. No. Queste persone, proprio per il mestiere che hanno, la professionalità che hanno, lasciamo perdere il bias politico che possono avere, ma proprio perché sono nei media, da 40 anni hanno intuito, fiutato il pericolo, molto prima di quando noi abbiamo fiutato l'opportunità. E quindi quando noi vediamo Lilly Gruber dedicare una trasmissione di mezz'ora in prima serata al suicidio di Tiziana Cantone, una trasmissione che apre con il news ticker in basso che già dà la risposta e dice uccisa dalla rete, la rete che uccide. Quindi questa, quella è la premessa, non è lo scopo del dibattito capire se è la rete che l'ha uccisa, no. Se, il punto di partenza, il punto di partenza è che Tiziana Cantone è stata uccisa da internet, quindi dal cavetto blu che vi si infila al computer o dal router. Ok, questo è il messaggio che arriva. E attenzione, la gente che guarda la televisione immediatamente dice sì, quando non c'era internet queste cose non succedevano. Nel dibattito, chiaramente, essendo già risolto il problema di chi sia il colpevole, si parla di come evitare che ci sia in futuro un'altra Tiziana Cantone. E io sono stato a un convegno alla Camera, organizzato sempre da Laura Boldrini, che è molto attenta, la Presidente della Camera, a queste questioni, in cui c'era già la Tiziana Cantone che ce l'ha fatta. Cioè, un'altra che pur essendo stata anche lei oggetto, non so se sapete la storia di Tiziana Cantone, di un video che, con diciamo, atteggiamenti intimi, che era stato poi alla fine pubblicato su YouTube, eccetera, lei però invece che suicidarsi si era ribellata, è andata invitata da Mentana che si è inginocchiato, l'ha ringraziata, eccetera. Ecco come bisognerebbe fare, bisognerebbe combattere e dire che no, io non ci sto a farmi uccidere dalla rete. Ok, sempre questo messaggio. Allora, noi pensiamo forse che... No, chi erano gli ospiti? Gli ospiti del programma della Gruber. La Gruber invita in studio esclusivamente due persone che sono già, anche loro, perfettamente accomodate su quello che è scritto nel news ticker. Paolo Crepet, lo psicologo che ha costruito poi anche... Perché non è, cioè, è un ottimo psicologo, però non sarebbe celebre se non fosse tecnofobo. E poi a legittimare, diciamo, per il grande pubblico sempre il messaggio della rete cattiva, un bravissimo attore, anche probabilmente un'ottima persona, che è Kim Rossi Stewart, che però per problemi suoi non ha mai avuto account sui social perché, per sua dichiarata, diciamo, convinzione, mi fanno paura, i social mi fanno paura. Quindi era già tutta preconfezionata. E lo scopo della trasmissione era dire, vabbè, come possiamo evitare che succeda di nuovo, che Tiziana Cantone venga uccisa da internet? E quindi tutta una serie di proposte, chiudiamo internet, diamo la colpa agli operatori, prendiamo Zuckerberg e lo portiamo davanti alla Del Ponte, e così via. Allora, lo snobista Giovanni Bocciartiere, lo snobista Antonio Pavolini, che andava ai Barcamp a prendere il Prosecco nel 2008 a parlare del futuro della rete, come avrebbero giudicato la trasmissione di Lilly Gruber? Ma questa è una cattina che non capisce internet. No, lei ne sa di internet molto di più di noi tutti messi insieme, perché conosce perfettamente i media. Ma proprio perché è una grande professionista dell'unico modello che in questo momento ripaga l'informazione, che è l'infotainment, lei non deve dirti, non deve fare informazione in quella mezz'ora, deve solo dare voce all'opinione disinformata, pregressa, di chi si mette davanti alla televisione in quel momento. Quindi uno si sente a casa perché si siede e legge Tiziana Cantone uccisa la rete, ok, sono uno dei vostri, perché io già penso quindi questo. Paradossalmente, facendo cattiva informazione, no, è proprio lei perché fa il suo lavoro al massimo dei livelli. Sì, perché porta milioni, se lei la ponesse in termini di dubbio... Perché vende il prodotto che lei sta deve facendo. Vendere, il prodotto è lo stesso prodotto di quando il TG, c'è una nevicata a Milano, il TG passa i primi 3 minuti a farti vedere la neve a Milano, è una notizia, no, a Milano più o meno nevica tutti gli anni, ma siccome tu sei a Milano, apri la finestra e effettivamente c'è la neve, il telegiornale sta parlando di te, e tu sei contento che sta parlando di te, e questo è di nuovo infotainment, cioè, è lo stesso motivo per cui... Sono le Iene che fanno i servizi su Blue Whale, per poi dire alcune settimane dopo che è un servizio inventato. Ma non lo fa perché è eticamente deprecabile? Anche se magari qualcuno potrebbe pensarlo, e potremmo anche metterci qui ideologicamente a dire se è eticamente deprecabile o meno Lilly Gruber che dice questa cosa. No, lo fa perché gli inserzionisti di quella mezz'ora sono felicissimi di sapere già da prima che lei tirerà su 1 milione di telespettatori dando la colpa alla rete fin dall'inizio. E infatti io ho fatto una gif animata di queste un po' buffe che si vedono in giro, dove si vede lei che dice... E quindi la rete può uccidere dopo la pubblicità. Ecco, in questa GIF, in cui dice solo questa frase, c'è già tutto. Cioè, c'è il modello che lei deve difendere, la disinformazione che deve fare, che è quella che fa funzionare l'informazione, perché attenzione, quando questi personaggi, che magari sarebbero anche ottimi giornalisti, si provano a fare la vera informazione, purtroppo sono delle foglie di fico, cioè non supportano il modello, cioè loro hanno già, negli ultimi 30 anni, da molto prima che apparisse internet, hanno già ricostruito un modello funzionante e che tuttora sopravvive, tutto sommato bene, e garantisce il loro stipendio sicuramente fino alla loro pensione, quindi perché dovrebbero cambiare modo di lavorare, no? Anche loro come sistemi microeconomici, non sto parlando solo della macroeconomia, dell'intera industria che deve trovare, diciamo, una ricollocazione. Allora, il problema che ha Lily Gruber è: se io la racconto in questo modo, io sono il top in questo momento, cioè io riesco ad avere la prima serata della 7 e riesco ad avere milioni di telespettatori. Purtroppo, già 30 anni fa, il tentativo di dire faccio buona informazione e quindi il mio prodotto è migliore di un altro in una libera concorrenza, già questo era finito ai tempi di Woodward e del Watergate, diciamo. Cioè, noi abbiamo l'ultima grande inchiesta fatta veramente in questo modo e che non era una foglia di fico, è stata quella di Purgatori su Ustica, e siccome siamo a Bologna penso che la questione vi tocchi direttamente. Da allora ci sono stati tanti altri grandi giornalisti d'inchiesta, non è che non ci siano stati dall'85-86, però guarda caso sono nomi che suonano un po' tetri: Antonio Russo, Ilaria Alpi, cioè sono persone che non sono qui più con noi a poterne parlare. Non voglio dire che automaticamente muoiono, però servono come foglia di fico per dire: ah, ma noi siamo il grande giornalismo che fa anche la grande inchiesta, questi piccoli citizen journalist non avrebbero i soldi, non ti difenderebbero dalle denunce, dalle querele, eccetera, noi siamo un sistema, noi garantiamo, eccetera, no? Naturalmente questa cosa sarebbe anche vera, no? Che uno dovrebbe affidarsi alla grande informazione per avere quel ruolo e darti quella garanzia come lettore. Peccato che giustifica il 2% e non il 100% del modello di business, perché il restante 98% del modello di business è perché? Perché loro sono sui primi 9 tasti del telecomando, perché loro arrivano nelle edicole, perché presidiano una catena distributiva. Presidiando una catena distributiva, ancora, e nonostante la concorrenza di internet, comunque controllano la stragrande maggioranza del mercato e dell'agenda della discussione. E noi su internet, invece che usarla per andare a guardare fuori da questa agenda, ci accapigliamo per essere i più convincenti, i politicamente più giusti, su quegli 8 temi che vengono decisi nelle riunioni di redazione la mattina. Cioè alla fine noi, che avremmo tecnicamente l'opportunità di guardare fuori, invece continuiamo ad accapigliarci su, non so, oggi Consip, oppure lo Ius Soli, eccetera. Cioè, l'agenda delle cose su cui ci accapigliamo su Facebook è sempre quella. Facebook non aspetta altro, perché è tutta felice di vedere che tutti si accapigliano su quegli 8 temi, perché in questo modo alimenta l'unico modello di business che ha, cioè riesce a rivendere dati dove si fa più engagement. Se io provo a scrivere: oh ragazzi, ma avete visto che quest'estate ci sono 3 gradi in media in più? Cioè arriva Caronte, abbiamo per un mese avremo una temperatura di 3 gradi più alta. Magari tra qualche giorno un giornale mette quello in prima pagina e cominciano a parlarne tanti, viene intervistato uno scienziato, eccetera, e diventa quello il tema della discussione. Ma finché non lo decidono loro, se io dico questo, non mi si fila nessuno su Facebook. E io nel mio ego dico: ah, ma perché devo parlare di questa cosa che in 3 mi commentano, ho beccato 4 like, non mi si fila nessuno. È bene che dica anch'io la mia sui temi della maturità. No? Oggi tutti dovevano essere quelli che sanno, che conoscono bene l'autore, che il povero Giorgio Caprotti. Tutti, cioè, oggi l'Italia era divisa in 2 parti. Caprotti è quello di Esselunga. Cioè, tutti dovevamo essere quelli che o conoscevano tutta la vita di Caproni oppure erano degli ignoranti. Cioè, il tema era quello, è un tema identitario. Abbiamo contribuito, abbiamo fatto un'informazione diversa, abbiamo usato internet in un altro modo. No. Credo di essere qui perché piace Giorgio Caproni. Però, detto questo, questa cosa che tu dici vale per i media, ma probabilmente vale anche per altri modelli di business. Cioè, penso anche ad altri tipi di imprese che hanno a che fare con il digitale, e un po' cinicamente dico sempre legato alla dimensione manageriale. Cioè, che cos'è che spinge un manager che ha ancora 15 anni davanti come manager in carriera con uno stipendio garantito, come dire, provare una strada diversa che non gli garantisce risultati di una certa tranquillità e medietà. Adesso parlavo con i responsabili della fiction Mediaset, cioè loro nel dubbio propongono sempre robe non innovative, perché cioè, e lì c'è il problema del divide tra chi compra e chi vende idee all'interno di qualsiasi organizzazione. Tu puoi anche essere il quarantenne che in un'azienda oggi sei paradossalmente ancora giovane, in questo paese sei 40 anni ed è abbastanza fa caponare la pelle l'idea, però purtroppo è così, e lo dico io, ne ho 50, okay? In un'azienda il quarantenne può anche essere molto alla page, aver studiato, essere cresciuto professionalmente, aver fatto formazione continua, ma se poi la persona che, a cui deve vendere l'idea vive in un'era geologica diversa, beh, a lui conviene proporre l'idea vecchia che viene capita e che viene sposata in quanto vecchia, o quantomeno l'idea innocua, cioè quella che ti fa passare come implacabile digitalizzatore, senza però minimamente toccare le pratiche e soprattutto la porzione di budget che ti fa arrivare a te, quarantenne, magari disonesto intellettualmente, alla pensione senza aver cambiato una virgola del tuo modo di lavorare. Ti appoggi quasi all'età più avanzata di chi prende la decisione, perché sai che quella è la strada, lastricata che ti porta fino alla pensione. Poi ci sono invece tanti sentieri più rischiosi, eccetera, ma in aziende organizzate in quel modo, perché dobbiamo inventarci tutti imprenditori e fare veramente innovazione quando possiamo passare per l'innovatore in mille altri modi? Per esempio dicendo apro il profilo Facebook e lo do da fare a un ragazzino che viene pagato in tutto l'anno 3.000 euro, ok, però io ho aperto il profilo Facebook, però tutti gli anni poi do il mio investimento pubblicitario ai vecchi centri media, continuo a fare pubbli redazionali, continuo a gestire la comunicazione. Un'altra cosa che scrive Antonio a proposito di questo tema, come vedete il tema è molto sfaccettato, perché è un tema anche molto culturale, non ha a che fare solo con la tecnologia, no? È profondamente culturale, è che il discorso sull'innovazione in Italia in particolare è stato lasciato molto sotto l'egida dell'idea della startup, che è un'altra buzzword ovviamente, e che di solito è una realtà che se va bene fallisce in 3-5 anni. Chiaro, cioè, per cui, come dire, l'idea è che l'innovazione è possibile solamente su cose molto avanzate con budget non si sa recuperato come, e che solitamente fatte di cose che falliscono, e ce ne sono tantissime di storie di questo tipo. Lo scopo della startup è avere la cosiddetta exit, cioè tu hai sviluppato. Raccontaci un po' appunto la modalità di exit, che poi ha toccato molte aziende della rete, da MySpace ad assolutamente altre. Cioè partire gridando, raggiungere i media, poi perderti. Allora, adesso non arriviamo ai casi estremi tipo Matteo Achille, eccetera, che lì è veramente qualcuno il cui capitale era avere grandi uffici stampa che parlassero di lui, del personaggio. E quella è una bella fake news. No, parliamo anche delle startup oneste, perché in Italia abbiamo avuto tante startup oneste che hanno avuto anche delle bellissime idee, e alcune di queste hanno avuto dei bei business plan. Poi aggiungi tutti questi fattori positivi e questi capiscono subito la cosa da fare: andare in Silicon Valley e farsi una settimana di pitch, e se veramente l'idea è buona, il business plan è buono, entra in un altro filone, che è quello del modo in cui l'innovazione avanzata viene finanziata dai grandi venture capitalists, che sono solo oltreoceano, ma non solo, anche in Israele, anche insomma in altre parti del mondo, comunque non qui, sicuramente non in Italia. In Italia che cosa abbiamo? Abbiamo un sistema dove la startup è una specie di bijou che le grandi aziende si appuntano, o le università, alcune però anche in buona fede, perché ci sono degli incubatori dentro i politecnici, per esempio, che hanno sfornato ottime idee, eccetera. No, però a vario titolo, io credo che sia anche un pezzo di corporate social value, se ci possiamo anche mettere, cioè sono grandi aziende che comunque hanno fatto educazione all'imprenditoria giovanile, si può dire che abbiano fatto un buon lavoro di comunicazione in questo senso, e va bene. Poi vincono questa specie di concorso a premi, tu hai vinto un grant da 10.000, 20.000 euro, non è venture capital, naturalmente, non è nulla, però intanto questi sono saliti su qualche palco, hanno imbracciato qualche microfono, hanno fatto qualche pitch, hanno fatto vedere le slide, magari qualcuno li nota, se c'è qualche testa pensante lì dentro, convinta di avere veramente una buona idea, il passo dopo è comprarsi tutti i biglietti per la California, farsi un giro di 2 settimane, se la cosa non va poi torni a casa e hai fatto una bella esperienza. 900 casi, 999 casi su 1000. Il millesimo, il famoso 1 su 1000, ce la fa. Allora, che vuol dire questo? Che è un messaggio sano dire a questi ragazzi non cercare lavoro, creda solo il tuo lavoro? No. Non cercare lavoro, creda solo il tuo lavoro, è un messaggio sano forse negli Stati Uniti, da noi no. Ok? Abbiamo però, mi sembra, anche superato questo momento di questa retorica. Abbiamo superato tutto. No, no, l'abbiamo passata. Adesso esce il bellissimo libro di Da Milano contro il nuovismo. Penso che lì ci saranno parecchi. Cioè, c'è anche la spiegazione politica un po' di tutto questo. No? Ma scusami, la tua domanda è. No, che dicevo che ci sono anche dei modelli, insomma, MySpace e altri. Per cui alla exit. Fine, che, allora, qual è la storia dell'exit? Esiste anche l'exit virtuosa, nel senso che tu, comunque, nella tua startup che poi hai raggiunto, grazie a un ecosistema più virtuoso, ha raggiunto dimensioni cash flow decenti, ok, tipo MySpace, a un certo punto trovi Murdoch che te la compra e tu sei ricco e sei a posto per tutta la vita. Peccato che per Murdoch è un fallimento micidiale. Stiamo parlando del più grande editore degli ultimi 40 anni. Il punto è che i grandi investimenti nel meraviglioso mondo di Zuckerberg, ok, o di Schmidt, di Google, in realtà se li possono permettere quelli della generazione precedente, che non capiscono che l'idea è fallimentare per loro. Quindi anche la exit virtuosa per l'imprenditore giovane, lo startup, può essere un fallimento spaventoso per quello che cerca di darsi una riverniciata. Tra l'altro Murdoch ci è cascato due volte, lo racconto nel libro, prima comprando MySpace, e poi dopo arrivano altri, diciamo, avvoltoi che gli dicono: guarda Murdoch, hai preso una fregatura da questi di MySpace, però noi adesso salviamo il tuo problema, che era i costi altissimi per tenere alta la tiratura di News of the World, di questi giornali che lui aveva negli Stati Uniti e anche in Inghilterra. No, noi ti facciamo lo stesso modello di business, ma a costi molto più bassi in ambito digitale. Creerai un nuovo quotidiano digitale, The Daily. E Murdoch ci casca di nuovo. E quindi praticamente butta un sacco di soldi, dando un sacco di soldi a queste persone, per fare qualcosa che loro stessi, i proponenti, sapevano benissimo non sarebbe andato da nessuna parte. Cioè, siccome c'è anche un'urgenza di dover fare qualcosa di nuovo nel digitale per la generazione dei padroni del vapore, è facilissimo vendere pessime idee. L'esempio proprio numero uno che faccio, adesso già me lo stai per chiedere, è quello storico della più piramidale delle aziende del mondo, che è la Sony. A un certo punto la Sony, semplicemente perché il capo della Sony aveva sposato Mariah Carey, decide di diventare una grande etichetta discografica. Prima si fonde con Bertelsmann e si crea Sony BMG, ve lo ricordate. Poi a un certo punto nasce proprio Sony Music, perché Bertelsmann dice: ma perché devo stare con questi giapponesi che butteranno un sacco di soldi solo perché quello si è sposato Mariah Carey? Ok, questi entrano nel mercato musicale esattamente nel momento in cui esplode la pirateria in tutto il mondo. Bella idea sposare Mariah Carey in quel momento. Comunque, che fa Sony? Sony è la tipica azienda antidemocratica, cioè proprio per la cultura che hanno. Hanno avuto idee straordinarie, se ci pensate, hanno inventato il Walkman. Adesso per decenni abbiamo portato la musica addosso grazie ai più grandi ingegneri del mondo di microelettronica, che erano giapponesi. Però quando si tratta di policy del consumo di contenuti, loro non sanno nulla. Loro sapevano fare dei grandi device, ma non hanno un'idea di che cosa succede ai contenuti. Investono, perché devono per forza aprire una sezione discografica, una grande cassa discografica, fanno dei contratti miliardari con i costi delle vecchie catene, quindi il marketing dietro tanti altri grandi autori che passano tutti da Sony perché paga di più, tra cui naturalmente Mariah Carey. E proprio nel momento in cui il business crolla, perché tutti cominciano a usare Napster. E prima che iTunes lanciasse la ciambella di salvataggio e in qualche modo ripermettesse alle etichette discografiche di prendere una revenue share anche dai contenuti digitali, e prima ancora dell'epoca di Spotify e dei servizi di... siamo proprio in un'altra. Come reagisce Sony? Ecco, quello è il classico momento, la tempesta perfetta in cui l'idea più mostruosa ottiene il massimo successo. Loro decidono di reagire alla pirateria introducendo un rootkit software, cioè un pezzo di software nei CD che loro fanno, che praticamente carpisce informazioni dal computer dell'utente in barba non solo alla privacy degli utenti. Cioè oggi ci ci rizzeremmo, cioè avremmo i capelli ritti. A quei tempi neanche ci pensavamo al problema della privacy, perché un CD che entra nel nostro computer, no? Adesso c'è internet, quindi la privacy, siamo tutti nei guai. No, a quei tempi non era quello il punto. Il punto è che su alcuni stereo non Sony neanche riuscivi a sentire la musica. Cioè crea questi CD incopiabili, diciamo, solo che non funzionavano in molte macchine. In molte macchine d'ascolto neanche si suonava il CD. Ed è questo che fa scoppiare la crisi, anche se il vero problema della crisi era il tema della privacy, ok? Tutto questo per evitare, no, che per riuscire... Nel senso che la pirateria vendeva tanti di questi CD che poi non si... No, perché l'idea era, i nostri CD non saranno mai copiabili, non finiranno mai nelle reti di Napster, nessuno farà le copie dei CD, nessuno... Questa era la logica, e soprattutto avremo il nome e il cognome di chi prova a fare questa cosa. Ah, ok. Ecco, allora, naturalmente questo non solo aveva questo effetto, ma violava anche gli accordi di distribuzione, così di EULA, cioè License Agreement, e quindi cause legali milionarie, quindi c'è stato un danno d'immagine mostruoso, cause legali clamorose per Sony, che praticamente ha distrutto la sua immagine, il suo business musicale praticamente demolito nel giro di pochi mesi. Questo perché? Perché un consulente che poi ha fatto una grande carriera, perché se n'è andato dalla Sony prima che scoppiasse questo bubbone, di cui faccio il nome solo nel libro, adesso qua mi sembra antipatico, poi dopo questo continua a essere un guru ascoltatissimo dal mondo delle, diciamo, dei media mainstream, per contrastare, diciamo, il problema della privacy. Questo è il fenomeno proprio più il fenomeno della pirateria. Questa è diciamo la manifestazione più rumorosa e folcloristica, anche perché erano gli anni 90 e c'era anche molta meno diciamo. Quindi alla fine cultura. È stato un insuccesso. Sì, sì. Per Sony, ma lui nel vendere l'idea è stato furbo, perché poi dopo si è riciclato. Ecco, attenzione, perché se andate oggi ai convegni della SIAE, ai convegni dove si parla di queste cose, la cultura non è molto diversa. Io conosco, diciamo, l'avvocato che difende quasi tutti questi sistemi di protezione dei diritti alternativi alla SIAE, no? Che si chiama Fulvio Sarzana. Non è andato di recente a uno di questi convegni, hanno passato tutto il convegno a insultarlo. E lui è venuto a saperlo da degli amici che erano presenti al convegno. Questo per farvi capire il tipo di no, ma è chiaro di che cultura che c'è. Convivono due sistemi, diciamo. Quello nuovo, che tra l'altro ancora non è del tutto costruito e funzionante, ma è... No, soprattutto non ha ancora creato un flusso di ricavi tale da compensare le perdite del sistema precedente. E per cui la maggior parte dei ricavi, io adesso posso fare l'esempio dell'editoria, che è il settore che conosco meglio, ma non solo quello, un po' dappertutto. I settori tradizionali, produttivi tradizionali, che hanno ancora la maggior parte dei ricavi proprio dai vecchi sistemi. Allora, è chiaro che non puoi più fare a meno dei nuovi sistemi, di come ci ha già cambiato la vita internet, perché tutti noi abbiamo uno smartphone e tutti noi, invece di cercare un numero di telefono sull'agendina, usiamo Facebook per mandare messaggini a quell'altro che c'ha lo smartphone, quindi gli sms superati o comunque con un altro uso. Sì, però queste cose le trova su Affari e Finanza, non negli articoli di cronaca. No, infatti. Cioè, però, il fatto, allora, che uno per avere l'agendina... Cioè... Infatti, qual è il discorso? Che tu dici gli articoli cronaca, fai riferimento soprattutto, anche se poi lo leggi online, al vecchio sistema editoriale, che in realtà è pensato per il cartaceo, no? Cioè. Quindi, perché? Perché tutta l'editoria... e non ha ancora i suoi maggiori ingressi, nonostante che siano in costante diminuzione, dal cartaceo. Tali da ripagare quei professionisti fino alla pensione, esatto. Perché dovrebbero cambiare, esatto, modo di lavorare. Esatto, quindi non sono solo i singoli professionisti, eccetera, è proprio tutto un sistema che ancora si tiene economicamente sul vecchio sistema, ma tutto questo vecchio sistema è permeato dalla crisi creata dal digitale, perché nessuno può più fare a meno dei sistemi digitali, dalla parte tecnica alla parte dei contenuti, e quanto adesso sono poi quasi la stessa cosa, insomma, diciamo, non proprio ma quasi. E però siamo in un momento di transizione che sarà ancora lungo, secondo me. è molto più lungo molto rispetto a come è disposto a raccontarlo, diciamo, il racconto nuovista, che ha sempre bisogno di notizie, ha sempre bisogno di cose che cambiano davanti agli occhi, eccetera. No? Quello è uno dei punti che lo sottolinea nel libro, cioè che appunto se il rumore è creato non solamente in negativo, no? Cioè per coprire le esperienze, perché l'altra cosa interessante che lui scrive è che noi tutti abbiamo delle nostre esperienze personali di normalità del digitale, e quindi vediamo delle cose che hanno a che fare con delle cose positive che il digitale può fare, o ne vediamo anche le storture, no? Di cui si parla. Però poi il discorso, l'occhio di bue è solamente o sui macro fenomeni negativi oppure su un discorso appunto di innovazione al futuro che produce molto cioè, come dire, crea delle tendenze che sono false tendenze. E poi sollevano anche false aspettative. Noi ci aspettiamo questa rivoluzione nell'immediato, anche il fatto di parlare di... Parlaci di Second Life, dai. Sì, Second Life è meraviglioso fare un titolo di giornale su Second Life quando appare. Immediatamente Facebook sembra vecchio. Second Life, ricordiamoci che Repubblica aveva un isolo su Second Life, il Corriere aveva un isolo su Second Life. Comprate e pagate con dei progetti. Esiste ancora Second Life? Questa è una buona domanda. Di fatto, no, di fatto questo... sì, esiste ancora. Esiste ancora? Sì, allora, era un social network che però era in 3D. Quindi i tuoi personaggi, invece che essere degli account su un foglio bidimensionale, erano degli avatar, esatto, che incontravano altri avatar, dove tu potevi... quel punto chiaramente era tutto giocato sull'anonimato, e quindi tipicamente gli uomini erano delle donne o degli animali, le donne erano degli uomini o degli animali, era abbastanza... bellissimi, ricchissimi. Erano tutti, sì, però era una bellezza molto cyberpunk, potremmo dire, e in più c'era questo effetto di una tecnologia molto immatura per poter rappresentare mondi virtuali su delle web application, quindi era tutto molto squadrettato, quindi aveva pure qualcosa del retro gaming, e tale è rimasto perché purtroppo quando fai una web app non è così semplice il meccanismo di upgrading, no? Comunque, insomma, è rimasto per gli amatori proprio di quella community. Cioè, in realtà ci sono tante persone che lì dentro, in quegli anni, hanno fatto una community, e tuttora, cioè, io conosco le persone che passano molto tempo su Second Life, anche se non ne parla nessuno, di sicuro non ha soppiantato, perdonatemi, né Twitter né Facebook, anzi, si è autosoppiantato. Però nei media se ne parlava tantissimo, appunto, come una tendenza... Sì, poi c'è una... In ascesa è una domanda naif proprio. Sì. Allora, Second Life in che anno è iniziato? Allora, io ne perché io non uso... Allora, vi racconto. Io ho visto l'elezione di 2008, Obama 2009. Dentro Second Life. Quindi era 2008. 2008-2009. No, ma il momento però c'era già il momento del boom. Momento di estremo boom è... No, ma me lo ricordo perfettamente. E invece Facebook perché... da quant'è che c'è? Da più o meno è abbastanza 2007, contemporaneo. 2009. Diciamo, le ricerche, le ultime cose su cui ho lavorato è in Italia se ne parla come un fenomeno di massa dal 2011. È ovvio che c'è da molto prima. Però il problema è quando arriviamo a una massa critica tale per cui se ne parla. Twitter coincide con il programma di Fiorello, ve lo ricordate, il più grande spettacolo dopo il weekend, il primo hashtag, ecco. Il problema è quando si sdogana questo tipo di discorso. Oppure oggi, pensate, Facebook investe su Oculus, cioè un visore tridimensionale su cui stanno puntando tutti tantissimo, compreso Apple, che nell'ultima presentazione ha mostrato, e tutti stavano aspettando per capire se anche lei sarebbe spostata sul tridimensionale avanzato, poi in realtà aumentato tridimensionale, per cui sembra che e quello sia il futuro. Che cosa fa il Corriere della Sera? Ha già cominciato a fare i primi prodotti per il quotidiano online, intanto a 360 gradi, quindi video a 360 gradi, già predisposti per il visore. Cioè l'idea è, quando arriva l'ultima innovazione, saliamo tutti sul carro. I media in qualche maniera la possono esaltare. Poi possiamo anche dichiarare subito morto. Ma magari domani mattina Google Glass si è chiuso, eh? Possiamo anche dichiarare morto qualcuno. E con questo, nel dichiarare morto, la morte del web, arrivano le app, è morto il web. E quella è una notizia. Sì, sono morti i blog. I libri o i blog. Sono morti i libri, i giornali sono... Annunciare la morte e annunciare The New Kid in Town, no? Questo è così che si fa il titolo. Io a un certo punto nel libro, da qualche parte, ho messo due copertine degli inserti di Repubblica, una del 2009 che dice internet e democrazia, perché era venuto Lessig a parlare alla Camera, invitato dal Presidente della Camera, che allora era Fini, a fare un meraviglioso discorso su, sulle crisi. Pensate, cioè, di Fini che invita Lessig, cioè, proprio... sì, no, infatti già lì insomma si vedeva, si capiva il tema del oddio mi rivendo qualcosa di nuovo, no? A prescindere da, diciamo, dalla mia impostazione della società, a sua insaputa. E quindi il titolo di giornale è Internet, libertà e democrazia. Nel giro di 10 anni, no, diventa traditi da internet. È della stessa impostazione. Sono guarda, se vuoi te la trovo al volo, perché so dove si trova. Bello qui avere invece che le slide, siamo così pochi che io posso far circolare il libro direttamente. Intanto preparo l'ultima domanda, perché andiamo verso la conclusione. Ma prima poi facciamo anche qualche domanda. Facciamo l'introduzione video, ecco. Ma posso fare una domanda? Ma la soluzione di questi problemi qualcuno l'ha in mente? Deve essere ne possiamo parlare alla fine. Ne parliamo alla fine, perché è la giusta chiosa del ragionamento che facciamo. No, però la domanda secondo me è appunto, quindi come possiamo lavorare per creare un racconto diverso sul digitale, perché il digitale è una tematica, come dire, che non è una roba tecnica, non ha a che fare solo con la finanza, ha a che fare con le nostre vite, perché i racconti fatti all'interno dei media poi producono panico morale, per esempio, se quando dici cyberbullismo o racconti di questo tipo, perché ai racconti di prima fatti sui media, pensiamo alla ragazza Cantone, no, che si suicida, poi abbiamo dei genitori che hanno delle preoccupazioni per i loro figli e mi chiamano gli insegnanti per le scuole per parlare con i ragazzi, cioè scateniamo dei meccanismi, insomma, pericolosi in qualche modo, cioè c'è un racconto sociale che stiamo creando. Pericolosi oppure di riflessione, cioè, pericolosi di riflessione, bisogna capire come lo raccontiamo, perché allora diciamo così, molto del tema del digitale nelle scuole per esempio viene delegato alla polizia postale, che ha anche degli ottimi professionisti, ma ha un'impostazione che è quella sulle regole, cioè se fai delle cose strane su Facebook ti becco, perché noi riusciamo a beccare. Ma soprattutto il loro compito istituzionale è la repressione. No, e quindi se tu imposti tutto il discorso solo dalla repressione in poi, è chiaro che manca tutto il pezzo. Cioè, io ti posso raccontare le regole di come vivere la città come ragazzino che guidi lo scooter, se ti chiamo appunto un vigile urbano ti racconterà quali sono le regole, come dire, normative e quelle repressive. Imparare a guidare la moto è un'altra cosa ancora, si possono consigliare queste cose. Ora mi chiedo, da dove parte un racconto di tipo diverso, o chi lo può fare? Perché abbiamo capito che in Italia in particolare non esistono all'interno della rete zone, prima citavamo 4chan o appunto il gruppo Anonymous o anche altri che in qualche maniera propongono anche discorsi diversi, nel bene e nel male, perché ricordiamo che tutta la campagna contro Macron di destra nasce su 4chan, per esempio, cioè certo, la campagna organizzata. Non stiamo parlando dei buoni. Sì, cioè parliamo di persone che le stesse cose che poi abbiamo letto sui giornali che capitavano per la campagna americana, se qualcuno frequentava 4chan, la vedevi organizzare dal basso. Ovviamente dentro 4chan ci sono stati anche quelli che erano pro Macron e che hanno costruito le contromisure. Quindi, anche Reddit, non nella versione italiana, ma diciamo no. Reddit sì. Quindi da dove nascono? O come può nascere un discorso di tipo diverso? Poi tu lo scrivi alla fine del libro anche in bellissime righe, no? Addio alle armi, si intitola il capitolo. Beh, addio alle armi finale. Serve intanto per dire che poteva essere un tema. Non disperdiamo tutte le nostre. Adesso dimentichiamoci Hemingway, Caporetto, no? Addio alle armi, proprio. Non disperdiamo tutte le nostre energie da capigliarci su temi identitari, e soprattutto a discutere sull'agenda fissata dai media. No? Cominciamo a usare internet per guardare fuori da questi temi. Fuori anche da Facebook, ma non parliamo di fuori in termini di piattaforma, perché sennò sarebbe bieco tecnodeterminismo. Cioè non è che uno si salva uscendo da Facebook, è giusto rimanere su Facebook, ok? Però cominciare a portare dentro Facebook quello che guardi fuori e lanciare altri temi. Questa è una forma di quello che si può fare a livello di militanza, di ecologia dell'informazione uno per uno, però questo è veramente lanciare un sasso nello stagno, cioè non è la soluzione. Allora lui invece... insomma, ha una impostazione molto più di ampio respiro, che riguarda per esempio quando si dice andare a parlare nelle scuole, no? Ai ragazzi. Beh, io non credo che nessuna persona di 30, 40 anni, figuriamoci 50, possa andare in una classe di ragazzini ed essere credibile nell'uso di queste cose. È credibile la polizia postale quando parla di repressione, ed è giusto che lo faccia, no? Abbiamo avuto un esempio abbastanza inquietante a Trieste, a parole ostili. Manca tutta la parte prima. Allora, la parte prima chi la può fare? Ma la parte prima, molto più che su internet, riguarda proprio l'educazione all'uso dei media. È quella la parte che manca. Cioè, c'è stato un periodo nelle scuole, negli anni Ottanta, prima che, diciamo, ci fosse questa nuova riposizionamento commerciale di tutta l'editoria, in cui la mattina, un giorno a settimana, si apriva il quotidiano. Lo ricordate? Adesso questa cosa si fa pochissimo nelle scuole. Proprio adesso servirebbe tantissimo. Per vedere, perché questa è la cosa da imparare, non è cosa è successo nel mondo, è... come viene raccontato. Cioè, ma perché, che cosa viene perché scrivono questo e non scrivono quest'altro? Perché oggi parliamo... Allora, perché il Parlamento a un certo punto è diventato un posto dove esibire cartelli? Non il luogo dove si discute. Questa cosa è cominciata prima. Quando il regime fascista aveva comunque conservato il simulacro del Parlamento, no? L'aula sorda e grigia, però nei momenti in cui mediaticamente serviva, dove faceva andare gli studenti a protestare? Gli studenti andavano a protestare davanti a Palazzo Farnese, l'ambasciata di Francia, a dire Tunisi, Corsica, Gibuti, orchestrato dall'Ovra. Poi andava al Parlamento, perché quel giorno al Parlamento si era parlato delle sacrosante richieste dell'Italia alla Francia, che se non fossero state soddisfatte ci saremmo alleati con la Germania. No. Quindi il Parlamento serviva plasticamente come Tazebao, dove attaccare messaggi che sarebbero poi stati rilanciati dalla propaganda di regime. Quando arriva Calderoli con la mortadella perché Prodi perde la maggioranza e fa vedere la mortadella in Parlamento, lui interessa sapere che in quel momento lui andrà sul TG. Questo bisogna far vedere ai ragazzi. Ai ragazzi non sarebbe male neanche far vedere come improvvisamente si moltiplicano i quotidiani negli anni. Scusate, dico solo questa, c'è una bellissima immagine di una protesta con i cartelli del Movimento 5 Stelle che fa un'interrogazione parlamentare, dove si vede la foto invece, dove ci sono loro, che si mettono tutti vicini per la ripresa della telecamera, e sono tipo in 15, l'aula vuota. Sì. Cioè, ci sono molte costruzioni fatte per un altro mezzo, come dicevo, che è la televisione. Loro che, no? Si sono scagliati contro la televisione nei primi anni, no? Dicendo che... Cioè, questo vale per loro, vale per tutti, eh? Noi non, cioè, sì, vale, ci cascano tutti prima o poi, la Lega, il PD, cioè, non sto facendo discorso poi, a vario titolo ci cascano tutti. Ma soprattutto io ai ragazzi spiegherei, quando a un certo punto c'è qualcuno che può dare le carte e dire tu diventi direttore di questo piccolo quotidiano, eccetera, semplicemente abbiamo una proliferazione di nuovi direttori di giornali, no? Paragone, Diagonale, appaiono tanti quotidiani che hanno la tiratura di 10.000 copie. Come si giustifica? Beh, si giustifica perché intanto prendono finanziamento pubblico i quotidiani, quindi in qualche modo si reggeva, ma soprattutto c'era una macchina che nelle rassegne stampa televisive dava al titolo dell'Opinione, dell'Indipendente, di Feltri, ve lo ricordate? Sì. Lo stesso spazio del titolo di un giornale che tirava 5-6 milioni di copie. È un po', se ci pensate, quel tema di tutto è diventato opinabile su internet era già partito allora. Tu potevi fare un dibattito sul tema gli asini volano, e siccome c'era una cosa che si chiamava par condicio, dovevi chiamare quello che spiegava. No, gli asini non volano, ve lo spiego scientificamente, dovevi anche perdere tempo, eccetera. E poi accanto c'era uno che diceva no, e invece gli asini volano. Non, perché oggi diciamo che su internet siamo nella post-verità? E a quei tempi no. Perché lo diciamo oggi? Questo io spiegherei ai ragazzi. Cioè, imparate a guardare le ragioni profonde, soprattutto a farvi sempre quella famosa domandina: a chi giova? Perché adesso bisogna parlare di questo e non si parla di altro? Quindi sono due piani, sempre a livello microeconomico e macrosociale. Bisogna che le istituzioni pian piano si rendano conto che i media sono cambiati, che l'educazione all'uso dei media è qualcosa che va, diciamo, per la salvezza stessa dell'impianto istituzionale. Se veramente crediamo che le istituzioni servano ancora a qualcosa, beh, siccome i media sono comunque nel loro complesso i grandi, diciamo, diaframmi attraverso cui dobbiamo passare per interpretare la realtà, beh, bisogna educare le persone all'uso dei media di tutte le età, quindi nelle scuole, non per i ragazzini, nelle scuole anche per i genitori, per gli insegnanti, cioè a tutti i livelli. Io vorrei che ci fossero 56 milioni di Giovanni Bocciardini a fare questo, non ce li abbiamo, però insomma è un discorso che da qualche parte bisogna avviare. Per questo sono contento che alla fine lui vada a parlare con la Boldrini lunedì. Perché sono anche contento che Arianna Ciccone non ci vada, che fa il suo meraviglioso lavoro con Valigia Blu, però tutto sommato è bene che ci siano tutti i momenti di contatto necessari, ci devono essere. Io sono andato a Parole Ostili a Trieste insieme a Giovanni, lì sicuramente era un clima molto ostile per quelli che la pensano come noi, però forse perché stavo scrivendo il libro dell'orrido eccetera, avevo bisogno di guardarlo un po' in faccia e di raccontarlo. Quindi, come avrete capito, il libro è molto informato, molto sensibile, scritto davvero molto bene, ma sembra che mi meravigli di questa cosa, però no, quindi, no, già lui scrive in rete molto bene, ma il libro come forma libro regge molto bene. Regge molto bene perché sono arrivati gli editor che sono Informant, che hanno fatto un lavoro straordinario. Bravi e racconta una storia che forse ci riguarda tutti e tocca temi vivi in maniera informata, e forse si fanno capire un po' meglio anche lo stato di normalità e di eccezionalità di vivere con il digitale, quindi. Grazie Antonio e grazie a voi per l'ascolto. Grazie Giovanni. C'era già una domanda. Sì, c'è qualche domanda? Sul tema, no, la sua era interessante, quella se... Sì. Qual è la soluzione legislativa? Beh, allora, se guardiamo gli interventi legislativi degli ultimi 10 anni, il vero problema che abbiamo avuto in questi 10 anni in cui è intervenuto qualche volta il Parlamento è che la legge, prima ancora di metterci noi a stabilire se fosse giusta, ingiusta oppure moderna oppure già vecchia o scritta male, prima ancora di stabilire tutto questo ci rendevamo immediatamente conto che era inapplicabile. Quando tu dici quasi sempre l'intervento, il contenuto deve essere tolto dal gestore, ma tu vai da Zuckerberg e gli dici no, adesso tu togli il contenuto, cioè ci sono delle cose, per dirne una, per esempio in Francia sono riusciti, perché in Francia il sistema è molto più oliato a livello, diciamo, del grande potere, quindi se si alza il Presidente della Repubblica e dice a tutti gli operatori di telefonia che se qualcuno per 3 volte scarica un contenuto illegalmente, a quello gli tagli la connessione per un mese, il famoso 3 times and you're out, ecco, questa legge in Francia è stata applicabile. In Italia non lo è, perché da noi gli operatori non vogliono, direi, posso dirlo giustamente, essere i poliziotti della rete. Zuckerberg naturalmente si fa delle ricche risate quando legge queste leggi che poi in giro per il mondo, perché non solo noi ci caschiamo, anche la Germania di recente, no, c'è cascata con tutte le scarpe. I grandi over the top, come dire, fondano le loro fonti di ricavi addirittura sull'elusione fiscale su scala altissima, e poi alla fine che succede? Che sono i governi ad andare in ginocchio per fare i grandi accordi fiscali con Google, e poi tornano pure gongolando dicendo ho fatto una manovrina da 4 miliardi solo perché sono andato da Google. Cioè, è incredibile la faccia con cui tutti i governi, non solo quello italiano, prima si lanciano in queste grandi campagne contro gli over the top, e poi però tornano come se avessero, diciamo, garantito alla collettività un'improvvisa entrata economica che salva le nostre finanze, perché è riuscito a ottenere una briciola da Google, no? Oppure perché, però in realtà è una, come si dice, un colpo di spugna, c'era già la metafora pronta. E allora, chiaramente tu non puoi fare questo, così come la storia del diritto all'oblio, no? Parlando di avanzamenti legislativi perché, di un certo livello. Perché dici che non lo si può fare? Perché non c'è una legge. Perché se tu no, perché la legge è inapplicabile. Scusa, che è un cretino, eccetera, mi querela e mi dai danni. Se tu dici una stupidaggine, oltre il falso favoreggiamento, ma queste sono leggi già esistenti, infatti ci sono queste che si possono applicare. Ci sono leggi, reati che sono perseguibili, altri no. La stragrande maggioranza delle cose per cui ci si indigna e ci si inalbera a livello politico sono, se si applicassero le leggi preesistenti, sarebbero facilissimamente, diciamo così, applicabili a fattispecie moderne. Ma il problema è che nessuno finisce sui giornali come l'eroe se non fai una nuova legge. E questo è il punto, per questo c'è stato bisogno della legge sul cyberbullismo. Perché, per esempio, nelle scuole succedono... Tu dici che ci sarebbero già gli strumenti operativi? Ma certo, strumenti legislativi. Chi mette un video e ti ricatta chiedendoti dei soldi per rimuoverlo, è estorsione. Perfetto, quindi la legge esiste già? Non esiste una legge per una ragazza che tradisce il proprio fidanzato facendo atti sessuali in maniera consenziente si fa riprendere e autorizza o meno o cede, diciamo, il contenuto video e qualcuno lo mette su Facebook, lì lei può comunque denunciarlo. Sì, attenzione. Okay. Però sono storie complesse. Proprio perché il sistema della inapplicabilità di tanti principi poi alla fine si rivela del tutto inefficace, per esempio a tutelare la dignità di Tiziana Cantone. Tiziana Cantone aveva una stanzetta su WhatsApp con 20 persone che per lei erano amici, cioè persone di cui si fidava. Ha condiviso questo video, di questi 20 ce n'era uno che evidentemente non era amico. Cioè, se io avessi fatto il new sticker di Lily Gruber, avrei detto Tiziana uccisa dall'amico falso di WhatsApp. Questo poteva essere il new sticker. Un titolo più corretto. Oppure nella storia, ma bisogna entrare nel merito, lei si è suicidata, era già uscita la tematica l'estate precedente, lei aveva fatto le denunce, stava ottenendo un certo tipo di risultato. Siccome si è arrivati in giudicato, i giornali hanno cominciato a riparlarne dicendo nuovo. Questo è il video che non facciamo vedere, quindi mettono il video con scritto censurato, un po' scritto sopra. Certo. Non è che lei si è suicidata per colpa dei media, ma sicuramente è tornata sotto l'occhio di bue. Quando superi la linea rossa, guardate, anche la ragazza che si è salvata dalla slavina dell'hotel Rigopiano, a un certo punto, dopo essere stata salvata, come qualsiasi ragazza di 25 anni, eccetera, ha scritto su Facebook: sono felice di essere salva. Sì. Siccome lei era nel frattempo diventata celebre perché il giornale ne parlava, sotto l'hanno massacrata con commenti in cui l'hanno insultata in tutti sì, i modi. Sì, ho seguito quella cosa. Ecco, questo è un altro esempio. Alla fine, chi è che manovra dove si trova questa linea rossa? Sono sempre i media tradizionali, non è comunque, non c'è il capro espiatorio è stato inventato. Stavo pensando la teoria del capro espiatorio responsabile, non c'è no, perché gli over the top rifiutano il ruolo di editori e di questo si sta discutendo moltissimo. Si cambierà una legge se dice che sono editori, se no non possono operare in Italia. Ma non è caso si chiamano ci facciamo over the top, delle storie da soli, no, ci lamentiamo che non c'è e non indichiamo non cosa rispondono serve. Rispondono a un governo perché sono sopra il governo, sono dei reati. Hanno una ma chi li fa applicare? Le faccio un altro esempio. No, no, cioè, io pubblico un video controverso su di lui dove lo infamo. Magari qualcuno pubblica un video in cui lo infamo e i miei amici lo condividono su Facebook, qualcuno lo prende e lo carica da un'altra parte. Devo cioè, suicidarmi per forza. Il problema è, non è come ritirare le copie di un quotidiano o ritirare le copie di un libro che è contro il pudore pubblico, diciamo, è che non esiste la distinzione poi fra copia e originale. Quindi molte cose difficilmente, oppure molte delle cose per cui i ragazzini litigano, noi litighiamo, passano nelle chat private di WhatsApp. Allora, quello è... Se io ho una... Quella è l'ulteriore deriva. Se io ho un'immagine di un certo tipo, come dice lui, io lo mando a lui perché è un mio amico, ma lui per prendermi in giro lo manda a lei, che lo comincia a far circolare, che gira per tutta la mia scuola... che gira per tutto il paese, Bologna è molto piccola, domattina mi vedono passare per strada e vedono che io sono la ragazza che nel video faceva quella cosa. Cioè, è abbastanza complicato. Che per certi versi è un po' anche Facebook, perché io penso, noi persone di mezza età, io non guardo la TV da 30 anni veramente, cioè da quando c'è Mediaset io la TV non l'ho più guardata. La odio, non me ne sbatte niente, la vedo seguire i miei figli e mi fa cagare. Quindi tre quarti delle cose che vedo la mattina non capisco cosa sono. Ora dopo cerco, magari se vedo. Però se io pubblico, cioè io mi so, a cosa noi faccio un uso, ci sto pensando molto. Ho una pagina della libreria dove cerco di mettere i contenuti, però ho una pagina privata. E mi ha colpito che di recente due persone sono i miei amici. Ah, allora come va? Sei stata meglio? Io penso, che cazzo ne sai te? Poi penso, certo, l'altro giorno ho scritto che avevo la febbre perché stavo parlando con mia amica, ma se in quella pagina lì mi ha visto anche lui che mi chiama mia amica, come si usa? Ci vuole educazione, cioè è inutile, bisogna tornare assolutamente... O magari io lo faccio se sono un adolescente proprio perché i miei amici sanno che faccio certe cose e quindi dopo... Però poi lo scopre tua mamma, lo scopre la tua insegnante... È per questo che la foto in più che passa ti mette a segno. So, per questo che sui ragazzini su Facebook non ci stanno ed è un paese per vecchi ormai. Cioè. Loro non ci stanno, però anche nelle loro chat stanno le cose girano. Cominciano a stare da altre parti, cominciano a stare su Snapchat ad esempio, magari con contenuti video degradabili, per cui io mando in chat una cosa a lui, quando lui la guarda sparisce dopo. Poi adesso adesso lo stanno levando, però anche quella è una delle possibilità, oppure su WhatsApp, oppure crescono nuovi tipi di comportamenti. Adesso noi stiamo, adesso non voglio togliere spazio, ma stiamo finendo una ricerca sugli adolescenti, e ci sono persone che già pensano quando scrivono qualcosa su WhatsApp, ma se me lo screenshotano, cioè se uno mi fa la fotografia, cioè quindi penso già in funzione del fatto che tu potresti togliere quella parte di conversazione e prendermi in giro da un'altra parte, per cui magari una cosa non te la dico, poi ti scrivo, ne parliamo di persona. Ma infatti quella cosa lì che tu dicevi, è vero che Snapchat sparisce in teoria subito, ma sappiamo bene che non è così, perché lo screenshot si può fare. Ma mi arriva la notifica, e adesso arrivano le notifiche. Io ti scrivo, so, però, ma perché mi hai fotografato? Però dopo entri lo stesso in un circolo vizioso. Ci sono quelli che hanno due telefoni. Adesso vanno anche 11, 13, 14 anni. È molto complesso. Sì, è complesso. Io immagino che i ragazzi poi comincino a trovare i loro, piano piano, loro, è tutto molto nuovo, sì. Cioè, come diceva anche lui, anticorpi che si stanno sviluppando, è tutto molto nuovo, la società, e ci vuole molto molto più tempo prima di scrivere giudizi definitivi, certo. Come se ne leggono tutti i giorni sui giornali, perché se vedete la maca di Michele Serra, praticamente tutti i giorni lui ha un giudizio definitivo su qualcosa che non è neanche cominciato. A un certo punto ha detto, ha commentato i risultati del ritorno della gente nelle sale cinematografiche come scusa per cominciare a prendersela con tutti quelli che guardano i film sul tablet in streaming. Ma che c'entra? Sono due fenomeni. Io sono felice che la gente torna alle sale. Io per primo torno vado spesso al cinema perché mi piace proprio andare al cinema e anche spendere 7 euro per una cofana di popcorn. Va benissimo. Cioè, so come funziona e mi risolve la serata. E va bene, però non per questo stacco l'abbonamento a Netflix. Può darsi che siano due economie. Faccio l'ultimo esempio, i Wuming forse li conoscete a Bologna, sì, sì. Perché sono amici. Quando hanno scritto uno dei loro ultimi romanzi, che è Manituana, quando avevano iniziato la trilogia, voi sapete che sono copyleft i loro libri, quindi dopo un certo periodo, mi sembra 3 mesi dalla vendita, loro li mettono sul loro sito e te li puoi scaricare, okay? E di solito quando esce un loro romanzo, quindi una cosa di carta eccetera, entra subito in classifica perché hanno una fan base, cioè abbastanza ampia, di persone appassionate, certo. Che subito lo comprano, no? E quindi sapete come funzionano le classifiche, quello ti fa scattare le classifiche e poi escono. Quando con Manituana, in cui fecero le prime operazioni, diciamo, di user generated content, creando un sito, invitando le persone a fare delle cose, vabbè, erano altri tempi, e misero Manituana a disposizione online, in 20 giorni tornò in classifica. Il che vuol dire che c'erano delle persone che, per il fatto di averlo potuto accedere gratuitamente a quel tipo di contenuto, intanto i Wuming scrivono dei libri molto grossi, sì, quindi vi sfido a stamparli, sì. Ti conviene comprarlo, come dire. Oppure persone che avevano cominciato a leggere e hanno detto, beh, è bello, lo compro, no? Oppure lo leggevano in cartaceo e dicevano, è talmente bello che lo regalano a una mia amica. Cioè non è detto che il modello della gratuità sia in assoluta competizione, stiamo imparando sicuramente. Mi capita quegli esempi, io dico sempre, se una città sono molte biblioteche, reggono molte librerie. Guarda il modello francese che dicevamo, esatto. Prima, dove nel paese più a culo del mondo c'è comunque la mediateca e la libreria. Se tu sottrai risorse alla formazione, certo. Dei lettori, pian piano, cioè il problema è che spariscono i lettori, non è che spariscono i libri, spariscono i lettori, quello è il problema. Sì. Non è, e forse anche tutta la roba che uno vede in streaming eccetera, magari ti socializza di più all'immagine, alla voglia di vedere un film o un'anteprima, vederli in maxi schermo per le cose che piacciono a te, se hai 15 anni o 30 anni o 50. Questo è come se da stasera potessimo ricavare un pensiero di comportamenti virtuosi e di condividere un po' più cose che interessano a noi come singoli, per quella percezione positiva che molti noi singoli abbiamo della lui lo scrive molto bene, detto, cioè il valore di business dei contenuti, chiudiamo questa cosa, muffa, il libro non lo abbiamo stasera perché Informant che ti coinvolgono produce in cartoline che sono ebook da scaricare, oppure c'è una produzione di libri print on demand, quindi per paradosso questa sera la presentazione senza libro, dove l'unica copia è la sua, che è quella che ci stiamo prestando. Nel caso si può contattare Informant, contattare me, che vedo. Sì, la cosa più semplice è andare, perdonatemi, su gli store, sì. E scaricare la versione elettronica, perché nasce come ebook. Non... Certo, però posso venire qui comodamente a prendere una robina. Molti leggono sugli reader, molti miei lettori. Sì, e poi c'è il print on demand. Il print on demand, qui lo suggerivo, so, per chiudere. Sì, io sì. Di lavoro sto aperta, se vendo dei libri, mi piace però lavorare con informal perché mi provocano portandomi delle tematiche che trovo, cioè mi toccano molto da vicino come persona di mezza età, un po' digitale, che ho dei figli adolescenti, che qui ha tutto un via vai di domanda sull'informazione.